9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 24 febbraio e oggi il gatto Oscar vi propone di fare una riflessione laterale, uno scarto. Come sempre tentiamo di andare un po' controcorrente, fuori dal mainstream, cioè rispetto a questa esplosione di spazio, di attenzione giustamente dedicata dai giornali a sempre nuove più rutilanti vicende di scandali di corruzione tra imprese e procedure pubbliche. Noi decidiamo invece di fermarci un giorno a riflettere su un filone che di solito viene battuto meno, il filone degli imprenditori, degli artigiani, insomma di chi lavora in proprio e di chi fa lavorare gli altri, che di fronte alle difficoltà della crisi si uccidono. È successo ieri per l'ennesima volta a Vicenza, nel nord-est, vedremo perché con particolare frequenza avviene nel Veneto, ce lo chiederemo. Il suicidio di Paolo Trivellin, un 46enne titolare della Trintonaci, una azienda che era in difficoltà perché non veniva, era stata messa fuori dai cantieri da Parmense Pizzarotti, la tedesca Bilfinkerberger, che non pagavano più quindi i dipendenti per i lavori che avevano eseguiti. L'imprenditore Paolo Trivellin, 45 anni, noto perché aveva protestato anche per la caserma Ederle a Vicenza e che negli ultimi mesi faceva di tutto per far pagare i suoi dipendenti non avendo più lavoro, aveva una vita di difficoltà professionali, non andava bene il bar che aveva provato a rilanciare a 90 vicentine con la ex compagna, il rapporto anche con la ex compagna era entrato in crisi, un altro locale aveva rilevato e non andava bene. Di fronte a tutto questo, tre lettere lasciate ieri e la decisione di impiccarsi. E come Paolo Trivellin, senza naturalmente fare eroismo di questo, il suicidio è sempre una scelta senza molto senso, che dà l'idea di un vuoto, di una disperazione, però esprime anche da una parte, ci interrogheremo su questo con i nostri ospiti, una tradizione di onore, io uso questo termine, che non considera il fallimento, la chiusura, come un momento fisiologico nella vita di un'impresa, ma che vive e radica con tanta forza e tanta tradizione e tanta coerenza l'idea di essere titolare di un'impresa, di essere responsabile nei confronti di chi ci lavora dentro e di essere agli occhi dell'intera comunità l'imprenditore, da considerare inipotizzabile, inimmaginabile l'idea che la crisi possa essere così forte da dover dire ai propri dipendenti non so più come pagarti, da dover dire ai propri lavoranti ti devo trasferire e si chiude bottega, al punto tale da preferire la morte. Può sembrare una cosa antica, può sembrare naturalmente, e lo è, un gesto di disperazione, ma esprime anche in qualche misura un'idea di serietà, di forza, di onore, di fronte alla quale interrogarsi perché sono numerosi nell'ultimo anno e mezzo le vicende di imprenditori suicidi, soprattutto nel nord-est. È stata la stessa scelta che ha portato un ingegnere dirigente d'azienda nella provincia di Treviso, Stefano Grollo, qualche mese fa a uccidersi gettando contro un convoglio ferroviario in viaggio verso Venezia, a Castello di Codego, a Treviso, perché la sua azienda, che produceva macchine per la lavorazione del marmo, era costretta ad avviare la cassa integrazione per una parte dei suoi 120 dipendenti e l'ingegner Grollo non ce l'ha fatta a dirglielo perché gli sembrava di tradirli nella condivisione che da mesi, mesi, da anni si realizzava in azienda. È la stessa decisione che ha preso sempre in provincia di Treviso mesi fa un altro piccolo imprenditore di 58 anni, Walter Ongaro, titolare nel suo caso di un'azienda di verniciature in forti difficoltà finanziarie a causa della crisi, e che i familiari hanno trovato un giorno anche lui, allora dice, impiccato all'interno della sua ditta a Fontanelle, un paese in provincia di Treviso. E anche in altre parti d'Italia, a Prato, un industriale conosciuto in tutta la città per la tradizione nelle tessile, si è impiccato anche lui, e così via. Un imprenditore di 61 anni a Istrana, qualche mese fa, che fabbricava marmitte a Postioma, si è suicidato con il gas dell'automobile. non voglio fare la lunga catena di chi nell'arco del 2009 ha preso questa decisione, ma vediamo di interrogarci con i nostri ospiti sul come mai in alcune parti d'Italia sia ancora così forte il senso dell'impresa da poter giustificare simili gesti di disperazione. Iniziamo innanzitutto con una testimonianza diretta, con la testimonianza diretta che abbiamo raccolto da Roberta, e anche lei del Nord-Est, il padre titolare di un'azienda. Un anno fa, proprio adesso si fa l'anniversario, si è suicidato, e abbiamo chiesto a Roberta di ricordare insieme qual era l'attività del padre. A mio papà svolgeva un'attività commerciale, vendeva e produceva colori per carrozzeria edile. Poi quando iniziarono a manifestarsi i primi segnali della crisi, cioè come nell'azienda ha vissuto il manifestarsi di questi segni suo padre? Allora, mio padre, ma forse era per natura sua, o forse proprio per l'idea di lavoro che si ha, non ha manifestato nessun problema fino a quando non abbiamo scoperto il decesso. Perché ha sempre tenuto nascosto tutto quello che cioè, era, non nascosto, ma era separata la vita familiare e il lavoro. E quindi noi siamo venuti a capire quello che stava succedendo praticamente troppo tardi, insomma, una volta. Quindi era molto riservato, insomma, delle cose che riguardavano l'azienda? Non era molto riservato, c'erano proprio due vite staccate, una era il lavoro e una era la famiglia. E il lavoro probabilmente teneva quasi più entusiasmo, era proprio lo scopo principale della vita, e quindi non, alla fine era rimasto talmente deluso dal lavoro che non riusciva a parlarne più in famiglia, forse. Comunque la famiglia non si è assolutamente accorta su un problema economico fino a quando abbiamo i conti. Fino a quando poi non è successo l'irreparabile, cioè quando non ha messo in atto la sua decisione. E pur non dicendo nulla, pur tenendo le cose separate, ma per chi conosceva suo padre, per i suoi amici, insomma nella sua vita pubblica, il lavoro quindi era la parte essenziale a cui tutti riconducevano la vita di suo padre? Io penso che c'è proprio l'idea forte che ha fatto spingere il Veneto nelle sue piccole aziende familiari a rendere proprio lo scopo principale della vita il lavoro, e quindi una volta che un po' per la crisi, un po' forse i progetti aziendali un po' sbagliati, che ha visto fallire il suo progetto fondamentale, è crollato tutto il suo mondo, ma non si è assolutamente visto attraverso gli occhi della famiglia questo. Senta, posso chiederle quando poi è successo, i dipendenti, chi lavorava con suo padre, che cosa vi hanno detto, che cosa vi è sembrato che pensassero? Se anche loro erano rimasti senza parole, o qualcuno di loro, di coloro che lavoravano con suo padre, in qualche misura se lo aspettava più di voi, secondo lei? Racconto questo perché forse si capisce. Mio padre aveva un onore, cioè un onore un po' strano, forse non si dice, non si chiama onore, non lo so. Quando ci siamo accorti, abbiamo controllato i conti bancari e gli era rimasto 300 euro in tasca, nei suoi conti privati. Gli ultimi soldi li aveva spesi per dare lo stipendio di Natale e la tredicesima. E quindi non se ne era proprio accorto nessuno immaginava quello che stava succedendo, perché era regolare anche nelle paghe, insomma era... Sì, credo Roberta che lei abbia usato in realtà la parola giusta dicendo onore, e la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, ma credo che sia anche a mio giudizio la parola da usare. Può sembrare incomprensibile ai più che ci ascoltano, può sembrare fuori tempo, può sembrare addirittura qualche cosa di simile a una recita, ma è l'idea che la fermezza, la rettitudine nel guidare l'impresa che si guida sia inconcepibilmente ricollegabile nell'opinione della propria famiglia, nell'opinione dei propri dipendenti, nell'opinione dell'ambiente in cui si opera, a l'idea stessa, la possibilità stessa di andare a una crisi così profonda da dover chiudere. E questo, secondo me, anche si chiama onore. Grazie Roberta, buona giornata. Grazie. E nel ringraziare Roberta, naturalmente, immediatamente uno sguardo anche ai messaggi, agli sms che ci vengono subito al 349-238-6666, perché molti non sono d'accordo con l'idea di utilizzare questa particolare categoria dell'onore, appunto, ricollegata ai suicidi degli imprenditori. C'è chi scrive, contesto fortemente questo, dice Antonio per esempio, contesto fortemente l'accostamento del suicidio con l'idea nobile dell'onore, è pericoloso perché è un accostamento improprio. Altri fanno notare che in questo caso sembrerebbe quasi che io istigassi al suicidio. Altri si chiedono se per caso non si tratta anche da suicidi da cocaina. No, guardate, io non, innanzitutto inviterei tutti a essere un po' rispettosi per chi prende una decisione di questo tipo, ovviamente, e per i familiari. Questa trasmissione io la faccio anche per i familiari di questi imprenditori, artigiani, commercianti che si sono tolti la vita, perché secondo me una radio come la nostra deve anche dare l'idea alla comunità degli imprenditori, di tutti i loro dipendenti, di avere la capacità umana di saper far sentire il battito di un cuore a fianco a loro. Ma al di là di questo, io non uso il termine onore perché penso che l'imprenditore che fallisca si debba suicidare. Al contrario, io vengo da una scuola mercatista, come direbbe il ministro Tremonti, per il quale l'idea del fallimento è un'idea dei passaggi, non dico obbligati, ma da considerare quasi fisiologici all'interno del mercato. E anzi, se c'è un difetto nel nostro ordinamento, nel nostro paese, è quello di associare l'idea del fallimento, della discontinuità aziendale, un grande metus reputazionale, per cui c'è l'idea della vergogna addirittura, e soprattutto delle conseguenze dal punto di vista del diritto civile, della facoltà di emettere assegni e così via, che ti costringono a considerare appunto l'idea del fallimento come un disastro, e invece dovrebbe essere considerato fisiologico. Ci sono delle idee che funzionano nel mercato, altre che non funzionano, ci sono dei tempi in cui le curve di costo ti consentono dei margini, altre in cui i fattori si disallineano e tu non puoi più reggere se non cambiando prodotto, o magari non avendo avuto l'idea ingiusta, o magari perché non hai l'investimento necessario da fare per andare dietro al mercato. E quindi io sono dell'idea che possa capitare, ma non mi tiro indietro dal considerare, dal punto di vista antropologico, culturale, nella tradizione invece italiana, di una parte dell'Italia in cui il valore del lavoro è fortissimo, come un elemento ancora positivo, l'idea che tanto sia inconcepibile da poter portare addirittura a casa di decisioni disperate, come sempre è un suicidio, ovviamente. Quindi io non sto facendo né apologie né sto indicando una specie di codice del samurai dell'imprenditore, non vorrei equivoci, però penso che sia utile dedicare non solo tutto il tempo che è giusto occupare e dedicare al problema degli ammortizzatori sociali dei dipendenti e di tutti coloro che perdono il lavoro, centinaia di migliaia nel nostro paese, ma anche di occuparci di casi come questi. Allora continuiamo col nostro viaggio e con i nostri interrogativi sugli imprenditori che soprattutto nel nord-est si suicidano, con altri ospiti. Abbiamo collegato con noi Daniele Marini, il direttore scientifico della Fondazione Nord-Est. Buongiorno Marini. Buongiorno a lei. E abbiamo poi Rocco Ruotolo, che è un imprenditore che ha lanciato l'idea di un fondo privato di garanzia di mutuo soccorso anche per questi casi estremi, non solo per loro, per tutte le difficoltà, ma anche proprio a seguito di casi come questi. Buongiorno Ruotolo. Buongiorno direttore, buongiorno pure a Roberta. E abbiamo poi Mario Cortella, industriale, membro della Giunta Camera di Commercio di Padova per l'industria. Buongiorno Cortella. Buongiorno a voi. Ecco, io comincerei da Cortella. Come nell'esperienza della Camera di Commercio di Padova, la sua opinione, come mai morire d'impresa a nord-est, addirittura sono stati titoli che grandi giornali hanno iniziato a dedicare a questa, non dico catena perché ogni evento è a sé, ma a questa singolarità per la quale ci sono stati 1, 2, 3, 8, 9 casi concentrati in Veneto, nelle grandi città del Veneto, di imprenditori, commercianti, artigiani che hanno avuto questo esito tragico l'anno scorso e hanno deciso di suicidarsi. Secondo lei come mai dalle vostre parti può accadere con più frequenza che altrove in Italia, Cortella? Basterebbe leggere la storia dell'industria nel nostro Veneto, quindi che tutto sommato io la vedo come anomala rispetto al resto del mondo. Qui tanto piccolo e tanto bello, oggi non regge più, per cui oggi l'impresa si identifica nell'imprenditore, quindi lei capisce che perdere una propria creatura diventa veramente un dramma. e secondo me la chiave di lettura è proprio questa, quindi un imprenditore tutto sommato atipico che in questo momento fa fatica a reggere un mercato globale dove piccola e media impresa probabilmente ha fatto il suo tempo. E devo dire che per quanto ci riguarda proprio come Camera di Commercio e come istituzione, noi fin dal 2009 stiamo seguendo con molta attenzione questo fenomeno, perché in effetti, specialmente in alcune aree, parlo del Padovano, dove la crisi è decisamente molto più accentuata, parlo del campo sampierese piuttosto che del cittadellese, dove la presenza di industrie è addirittura di 11 imprenditori su 100 abitanti, e capisce che è una diffusione incredibile, e qui la crisi si fa sentire ancora di più. E allora noi abbiamo finalmente dato vita a un tavolo istituzionale anticrisi dove assieme ad altre istituzioni, la provincia di Padova, i comuni e via via, stiamo affrontando con grande serenità d'animo queste tematiche, e vedo anche che stiamo risolvendo parecchio. La interrompo un secondo, mi interessava sapere, prima di andare a vedere poi la seconda parte, che cosa si sta facendo per la crisi, l'opinione di Daniele Marini, direttore scientifico della Fondazione Nord-Est, perché di fronte alla particolarità della concentrazione dei piccoli nel Nord-Est, in Veneto e così via, ricordo tutti che poi il Veneto è diventata la regione italiana che più è diventata la concentrazione di manifattura rispetto al totale dove ha raggiunto la produzione, cioè con più addetti addirittura della Lombardia, quindi stiamo parlando di una regione in cui piccolo è un particolare piccolo manifatturiero che esporta molto, e in realtà noi eravamo reduci da prima della crisi, Marini, in anni in cui celebravamo questo modello, perché proprio la dimensione piccola, se da una parte era bassa intensità di capitale investito, dall'altra era grandissima capacità di sapersi adeguare al variare della domanda internazionale in tempo rapidissimo, cioè il tempo più rapido in tutta Italia c'era in Veneto di adeguamento. Su questo tessuto che eravamo abituati a concepire come piccolo ma di successo, nella sua esperienza, questo anno e mezzo di crisi terribile, con un arretramento degli ordinativi manifatturieri a 92 trimestri fa, dice Banca d'Italia, nel Veneto colpisce con ancora più durezza che nel resto delle regioni del Nord-Ovest? Ma no, francamente no, così come non vorrei che passasse un'idea che esiste un morire di impresa a Nord-Est, nel senso che qui si sono verificati dei casi, ma come lei ha detto all'inizio, si sono verificati anche in Toscana, a Prato, piuttosto che da altre parti, quindi non vorrei che passasse, diciamo così, nell'immaginario collettivo l'idea che qui sia più facile che avvengano questi episodi rispetto ad altri. Il problema, questo è il primo aspetto che vorrei sottolineare, il secondo è che se noi andiamo a vedere i dati delle imprese, qui è vero che esiste una piccolissima dimensione di impresa, ma non in modo diverso rispetto ad altri contesti territoriali come il Nord-Ovest piuttosto che il centro. Di più, qui le classi dimensionali più numerose sono quelle tra i 10 e i 49 rispetto a tutto il resto d'Italia, quindi qui è vero che abbiamo un piccolo, ma è un piccolo un po' più grande. Precisato questo, diciamo così come profilo generale, il problema che secondo me è avvertito oggi particolarmente, secondo le nostre ricerche, è che la crisi si fa sentire in particolare nelle imprese che stanno in mezzo alla filiera produttiva, alle imprese manifatturiere che stanno in mezzo, cioè sono schiacciate da un lato dalle imprese più grandi che sono i loro committenti, e dall'altro, diciamo così, con le altre imprese che stanno a valle, cioè che si confrontano direttamente col mercato. Ora, queste ultime tutto sommato riescono ancora a reggere e andare abbastanza bene, perché comunque una domanda esiste, per quanto lenta, per quanto complicata, però che riesce a dare un volano, diciamo, a queste imprese che si confrontano direttamente sul mercato. Sono le imprese interne alla filiera che oggi stanno soffrendo di più, perché è su di loro che si stanno scaricando da un lato le strategie delle imprese più grandi che possono ristrutturarsi, mentre le imprese più piccole, come noto, fanno fatica a ristrutturarsi perché hanno pochi dipendenti, quindi qual è la loro fuga di uscita, qual è la loro fuga, qual è la loro porta di uscita, se non quella di licenziare i propri dipendenti o di chiudere l'impresa, no? E dall'altro sono alle prese con la stretta creditizia. ancora una volta le ricerche che realizziamo su questi fronti ci dicono che sono esattamente le più piccole imprese a soffrire il rapporto con il mondo del credito. Quindi di qui una sorta di sensazione di isolamento di queste imprese in questa fase, soprattutto per quelle che magari o hanno difficoltà di mercato o perché sono in settori, nicchie produttive, diciamo così, oggi ormai mature. Ecco, quindi c'è un mix di elementi che fa sì, che porta purtroppo alcuni fra questi imprenditori a delle scelte estreme che io chiamerei più con il senso di responsabilità, oltre al fatto che, come giustamente diceva lei prima, qui da noi non esiste, in Italia non esiste un'idea di fallimento così come esiste nei paesi anglosassoni, per cui il fallimento di un'impresa è una sorta di stigma sociale che assolutamente viene attribuito. È un trauma per sé, per la propria immagine, per tutto, è come se fosse la fine di un mondo, insomma. Coinvolge se stessi, ma coinvolge quindi la dimensione familiare, coinvolge tutti. E di qui anche quell'elemento di cui ci aveva detto Roberta, naturalmente nei confronti della quale da esprimere grande stima, per cui non si dice nulla fino a che diventa tutto irreparabile, per così dire, che è un po' il contrario di quello che obiettivamente bisognerebbe fare. Io ringrazio molto Daniele Marini perché c'aveva poco tempo questa mattina, ma ci tenevo in particolare che con la sobrietà che quella che lo caratterizza insieme alle sue analisi richiamasse tutti all'idea di non pensare adesso che nel nord-est c'è la catena dei suicidi e dei fallimenti più che altrove, assolutamente no. Io voglio rifuggire da ogni banalizzazione giornalistica. Morire d'impresa è stato un titolo usato dalla Stampa, cui dietro poi è andata un'inchiesta del Foglio e così via. Noi oggi ci limitiamo a riflettere su questo ennesimo suicidio da cui siamo partiti, quello di Paolo Trivellini, dopo alcuni altri casi analoghi che sono avvenuti soprattutto anche in Veneto, e lo facciamo però con grande rispetto verso i familiari, ma anche per tentare di capire tutti insieme come si fa a evitare decisioni di questo tipo. Buongiorno cari ascoltatori, oggi tema un po' delicato, siamo partiti dal suicidio di Paolo Trivellin, 46enne a Vicenza, e ci siamo interrogati con Roberta sulla stessa decisione presa da suo padre un anno fa. Roberta ci ha spiegato che suo padre ha deciso di suicidarsi, di impiccarsi senza che la famiglia sapesse nulla, e sui conti gli hanno trovato solo 300 euro, la sua ultima preoccupazione erano pagare fino alla fine a Natale, la tredicesima dei suoi dipendenti. Ci sono molti sms che immaginavo, vista la delicatezza del tema, sto tentando anche di usare un tono un po' diverso dal solito, molti di voi mandano sms che vorrei veramente leggere oggi più del solito, perché sono messaggi moltissimi che mi fanno molto riflettere. C'è un imprenditore veneto che ci dice: guardate che io da aprile io ho dovuto chiudere, riaprirò in Tunisia, difficile da spiegare forse a chi sta nella comunità dove sono in Veneto, ma meglio così piuttosto che chiudere e uccidere definitivamente. È un'impresa italiana, la delocalizzazione, quindi prima componente. Secondo, c'è chi mi dice: state un po' trascurando l'effetto che da noi ha la grande ondata di rientri bancari che le aziende di credito hanno chiesto alle piccole imprese, ed è questo che da noi ha avuto un effetto più forte che altrove. C'è chi manda un messaggio dicendo: in Veneto sono d'accordo nel dire che esiste ancora una certa concezione della piccola impresa familiare dell'onore, cioè gli affari si fanno sulla parola. In altre regioni d'Italia, in altri segmenti del mercato italiano, non c'è un rispetto della parola come da noi, e quindi non è sbagliato usare la categoria dell'onore. Alcuni mandano messaggi che dicono: forse alcuni ascoltatori a cui dà fastidio usare la parola onore non capiscono che l'onore da noi è appunto rimanere solo con 300 euro prima di prendere una decisione così estrema, ma pur di pagare i propri dipendenti. E sono messaggi comunque molto toccanti, e ci contavo un po' sul fatto di non suscitare l'effetto di sembrare Radio Confindustria che si occupa degli imprenditori e non dei dipendenti. Io sto semplicemente dicendo che accanto alle difficoltà estreme di centinaia di migliaia, di alcuni milioni di italiani a basso reddito dipendente che hanno avuto il posto di lavoro o investito dalla crisi, sono in cassa integrazione o vivono con questo rischio e questa paura di non arrivare a fine mese, occupiamoci anche di quei piccoli imprenditori lavoratori autonomi che nel 2009 sono stati travolti dalla difficoltà, perché magari stanno a metà di una catena di fornitura, come ci ha spiegato Daniele Marini, e quindi non hanno margini per fare utile tagliando qualche costo. Devono, dopo qualche mese in cui non hanno più i soldi per pagare i propri dipendenti, ammettere con i dipendenti: signori, qua non c'è più un futuro, ed è molto difficile farlo. Allora chiedo in particolare, non lo avevo presentato, a Claudio Miotto, presidente di Confartigianato del Veneto. Buongiorno Miotto. Buongiorno a voi. Nel lavoro autonomo che voi rappresentate nel mondo degli artigiani, questo fenomeno, non dei suicidi ma delle chiusure in particolare nel 2009 nel Veneto, che entità, che dimensione ha avuto? Una dimensione importante, guardando i numeri, certamente. Bisogna però avere anche l'attenzione di saperli leggere nella loro interezza, vale a dire che tipo di aziende possono chiudere, se sono aziende che hanno una storia o se sono aziende che sono nate anche a seguito di espulsione dal mondo del lavoro e cercando di inventarsi qualche soluzione. Una premessa però la devo fare, perché il tema che lei sta trattando, che apprezzo il taglio con cui lo sta facendo, che sarebbe più facile stare zitti in questo argomento, però l'informazione ha anche questo compito, questo scopo di portare a conoscenza. Ecco, il taglio è quello delle componenti umane, della parte emotiva, delle passioni che sono intrinseche nell'essere umano e che, coinvolte e sommate a più elementi, possono portare anche a questi fatti, perché magari in quel momento si può essere più deboli. Certo. Bene ha fatto Daniele Marini a richiamare l'attenzione. Non è vero, e anche lei l'ha fatto, quel brutto articolo, lo cito proprio perché mi ha dato tanto fastidio, di qualche tempo fa, lei l'ha nominato, non lo ripeto neanche. Sì, quel morire d'impresa a nord-est, esatto. Si può morire, non è vero. Ricordiamoci che questo è un territorio che negli anni 60 era terra di emigrazione. Grazie a queste capacità, a questa gente, oggi è un territorio dove si può vivere bene e ci sono dei rapporti umani e personali dove si può creare futuro per la propria famiglia, per i propri, ovviamente, per gli imprenditori e per i dipendenti. Questo non va dimenticato. Parliamo degli anni 60 e non parliamo di 2000 anni fa. Detto questo, dopo è tutto talmente, cioè non entriamo nel merito della questione. Certamente, come ripeto ancora quello che ha detto Marini, le aziende medie sono quelle più in difficoltà in queste condizioni, perché sono terziste di altre aziende, come è avvenuto in questo caso. Pertanto non è solo questione di amministrazione pubblica che paga o non paga, ma è anche questione della filiera fra terzisti, che mette in difficoltà chi è in mezzo, che ha i costi ma non ha la cassa che gira. L'attenzione io la porto però su quelle che sono le emozioni e le passioni. Non è questione che sia un onore fare o non fare, certamente lei l'ha ben chiarito, però si tratta anche di pudore, di dignità. L'azienda spesso è molte volte è la prima figlia, non si può accettare che la prima figlia venga a mancare, evidentemente. Attraverso questa figlia, tra virgolette, c'è la dignità della famiglia, del vivere, e in questo periodo di difficoltà economiche questo territorio non ha sofferto più di altri, anzi meno, perché proprio la famiglia, il sistema famiglia, il sistema impresa ha fatto il primo elemento di solidarietà ed ammortizzatore sociale. E di coesione, questo secondo me è un valore, ed è un valore in cui, come bisogna sottolineare spesso, che i dipendenti, i sindacati sono stati responsabili in grandi crisi di imprese infrastrutturali o di imprese manifatturiere fino a questo momento in Italia, è un dato rispetto alla realtà di altri paesi che ha visto i sequestri di dirigenti, così anche gli imprenditori, i manager, i quadri, i dirigenti fanno coesione sociale tutti i giorni con i loro comportamenti. A me questo piace sottolinearlo, in particolare nei confronti del mondo dei lavoratori autonomi, degli artigiani, dei commercianti, verso i quali spesso, da questi microfoni lo dico spesso, si fanno campagne di odio, di divisione sociale, e che invece rappresentano nel tessuto urbano, nelle piccole città, nei piccoli paesi del nostro paese, la spina dorsale di che cosa sono i fenomeni di socializzazione urbana, del vivere i centri storici. Quindi non dimentichiamolo che poi, grazie alla difficoltà di chi sa tenere aperta la propria bottega artigiana o commerciale, si vive in un certo modo o non si vive in un certo modo nei centri italiani. Sentiamo cosa ne pensa rapidamente Andrea, che ci ha chiamato dalla provincia di Vicenza. Prego Andrea. Buongiorno. Dica. Niente, qui c'è una grande solitudine. Se lei adesso dovesse venire nella zona di Montecchio, Montebello, Vicenza, sì, non c'è nessuno. Qui l'istituzione. Io mi ricordo che negli anni d'oro, quando la vacca del Nord-Est era bella grassa, facevamo un fatturato che era 3 volte tanto quello della Fiat quanto produceva la 1. Adesso siamo rimasti soli. Non c'è nessuno che ascolti. Io ho fatto 3 lettere sul Sole 24 Ore col dottor Pasqualetto. Ci fosse stata una volta che le istituzioni avessero risposto. Lei dice che c'è una responsabilità delle istituzioni politiche, mi pare di capire, o quelle dell'associazionismo di impresa? Ma di tutti. Adesso ci sono le elezioni regionali. Vedo cartelli, Veneto con te, parla col Veneto, viva il Veneto, lavoro al Veneto, e poi non si sente più nessuno. Io ho ereditato una ditta di miei, faccio fatica a tenere aperto. Il suicidio che c'è stato sarà il primo di tanti altri. Andrea, mi lasci dire, però lo dico con rispetto per lei come per tutti, non diciamo così, cioè noi dobbiamo stare vicini ai familiari e dobbiamo dire a tutti coloro che hanno qualche pensiero analogo che esiste un modo. Rivolgetevi all'associazionismo, uscite dalla disperazione, perché io non sono molto dell'idea che bisogna dire questo sarà l'inizio di una catena, ecco, Dio non voglia, e non è giusto che sia così, perché le difficoltà d'impresa si possono superare inventandosi strumenti nuovi, ma soprattutto condividendole. Ecco, non è detto per forza che le imprese restino aperte nelle difficoltà, però bisogna promuovere una cultura anche capace di affrontare le crisi di impresa. Molti altri messaggi ci fanno notare che nel Veneto, soprattutto nel mondo del lavoro autonomo, della piccolissima impresa, c'è chi ripartirà da dipendente senza per questo vergognarsi dopo aver pagato fino all'ultimo euro ai propri dipendenti. Molti altri messaggi ci fanno capire che in effetti questa idea che ho avuto di usare un po' questa parola difficile, onore, però è molto condivisa, mi pare di capire, dagli ascoltatori di quelle parti. Sentiamo ancora 2 ascoltatori, poi torniamo ai nostri ospiti. Mirko da Treviso, prego. Mirko. Buongiorno Oscar, sono Mirko. Io 15 anni fa sono partito con un'azienda piccolina da solo, facendo impianti di climatizzazione un po' particolari su industrie. E piano piano sono arrivato ad avere 29 dipendenti, tutti ragazzi amici miei, via dicendo. Adesso da luglio abbiamo iniziato a avere la crisi, sono di Treviso. E man mano ho dovuto metterli in chicca, in integrazione, via dicendo. È molto dura per una persona come me, che forse non ho la mentalità di imprenditore, non lo so, però dire a un ragazzo che sei nato assieme, così guarda non c'è più lavoro, che io ho 46 anni, cioè quindi trovarti che devi dirgli guarda, cioè, forse bisogna avere il carattere per farlo, forse non c'è, non lo so, però è molto faticoso per un imprenditore dirgli e non trovi lavoro, non c'è lavoro, perché poi fare quello che vuoi, ma io avendo tutti i ragazzi, tutti in regola, tutti la sicurezza è stata sempre fondamentale, non ho mai avuto un infortunio, mai niente, ti scontri con delle aziende che, cioè se tu sei a 100 loro sono a 80, se tu sei a 80 loro sono a 60, quindi non ce la fai a prendere lavori sotto costo, non ce la fai. E quindi diventa a un certo punto, il loop diventa quello. Grazie Mirko. Marco da Verona. Buongiorno dottor Giannino. Dica. Niente, io volevo dire questo. Qua ecco, bisognava parlare di tante cose, ma non parliamo del credito che il piccolo imprenditore può avere all'esterno dopo aver fatto delle forniture o da aver lavorato. Si rivolge al proprio cliente per chiedere i soldi e questo cliente, naturalmente, capendo esattamente com'è la giustizia italiana a non prendere, a tutelarlo, non pagano, non vogliono pagare. E naturalmente queste persone, questi piccoli imprenditori sono completamente sfrattati dai debiti, perché non avendo la possibilità di avere i soldi dopo aver fatto delle forniture o ad aver lavorato, è impossibile davvero. E chi li difende? Le associazioni dovrebbero sicuramente fare una via preferenziale, cioè cercare in qualche modo di salvaguardare questi crediti che i piccoli vacca. Venditori possono avere. Però vedi Marco, io Marco un secondo, perché su questa cosa delle associazioni io ho battuto molto le associazioni, non solo di Confindustria, della Confapi, ma soprattutto artigiani, commercianti, le Ascom, quelle a cui ho molta attenzione. Io non credo nella divisione tra manifattura e il resto. L'Italia si salva facendo manifattura e facendo servizi insieme, e io devo dare atto che da quella parte c'è stato un grande fermento nelle associazioni per tentare intesa con il mondo del credito per i piccoli e così via. Quello che però è un po' difficile che possano fare le associazioni è tutelare i pagamenti in maniera prioritaria ai piccoli, a chi sta in mezzo alla catena, perché le associazioni su questo possono poco. Lasciamo perdere poi il vergognoso capitolo dei mancati pagamenti da parte del debitore pubblico. Ecco, quello è un capitolo. La gravità nella gravità, visto che i signori dello Stato le tasse invece le vogliono sempre a cadenze fisse, però quando si tratta di non pagare, non pagano. Ma anche per i privati, i tempi di pagamento dei privati, è chiaro che l'associazione non ha potuto fare molto per concentrare il minor dilazione possibile dei pagamenti, soprattutto ai piccoli, soprattutto a chi è terzista o al centro della catena. E quello, secondo me, è uno degli aspetti fondamentali invece delle difficoltà che poi possano portare chi ha pochi margini per diversificarsi, purtroppo, a dover prendere la decisione di chiudere. Sentiamo ancora rapidamente Giuseppe da Milano. Prego Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno. Molto interessante questa trasmissione, questo tema. Io sono un consulente, spesso vivo a Milano, l'Italia, e anche ieri ero a Treviso in un'azienda di software, e volevo esprimere semplicemente un mio invito, forse anche a lei, a essere promotore di un'idea, nel senso che il Triveneto è stato anche citato in alcuni libri come un modello oggi per affrontare il mercato, non oggi, ieri, per affrontare il mercato. Sono nati i centri distretti industriali, le associazioni di tutti i tipi, ho colto che fanno rispetto ad altre regioni più attività. E questo argomento, non voglio toccare l'aspetto macroeconomico della globalizzazione, no, è questo, vabbè. E quindi dice, no, perché sul nord-est il modello ne abbiamo parlato tante volte, ma dice rispetto al tema di oggi? Secondo me, essendo stato un po' a fianco, che da una parte c'è una dimensione culturale che sta all'aspetto che ha dato al Veneto la forza, no? Ieri, e quindi un aspetto di flessibilità, di capacità, e dall'altro, sempre nell'aspetto culturale, c'è però anche un po' scarsa attenzione ad accettare suggerimenti, consigli di chi, venendo da altri mondi, può portare qualche idea rispetto all'attuale modello. Io credo che la complessità si affronti col sistema a rete, e sono anche vicino all'economista Schumacher che diceva piccolo e bello. Giuseppe, sono d'accordissimo, l'idea delle reti di impresa, soprattutto per chi è piccolo e chi sta nei servizi, è secondo me fondamentale, va portata anche in una capacità insieme di sapersi proporre all'Agenzia delle Entrate per il consolidato fiscale distrettuale territoriale. Questa secondo me è una sfida che le associazioni devono lanciare, che gli iscritti alle associazioni devono chiedere che le associazioni debbano fare. Bisogna portare questa stessa dimensione del fare rete nei bond distrettuali. Questa è un'altra sfida che chi è iscritto alle associazioni deve chiedere a chi fa rappresentanza d'impresa. Io sono sempre disposto su questo a girare per l'Italia e a spiegare tecnicamente come si può fare. Fare rete. Contemporaneamente devo dire anche a chi manda SMS, come il titolare della piccola sartoria che ha margini irrisori e che ha avuto una malattia, credo che sia in grado di la signora che me l'ha mandato sta capendo che sto parlando di lei, le posso solo dire, visto che nessuno l'aiuta in banca eccetera eccetera in questa piccola sartoria, forza e coraggio signora, forza e coraggio Cinzia, trovi il modo di farsi aiutare, noi comunque siamo qua, ma niente gesti di disperazione, mai. Rocco Ruotolo, lei ha animato questo fondo privato di mutuo soccorso, lo so che le ho dato poco tempo alla fine, ma ha visto quante testimonianze abbiamo scatenato partendo dal suicidio di Paolo Trivellin. Come funziona la sua idea, Rocco? Prego. Allora, la mia idea funziona, saluto pure il dottor Claudio Meotto, che ho l'onore di vedere. Allora, il discorso è in questi termini. Io sono stato per 7 mesi a parlare di questa situazione, no? che c'era questo problema. La fondazione dovrebbe servire che tutti dovrebbero tirare fuori dei soldi, i commercianti, artigiani di tutta Italia, e non grandissimi soldi, per dare una forza a chi c'ha bisogno, di vedere che c'ha veramente un interlocutore serio che vada a parlare con la banca, che c'ha un amico vicino e l'aiuta ad andare avanti con il sostegno dell'impresa, con, giustamente come diceva lei, il fallimento diventa un marchio in Italia, invece non è vero. Comunque, poi volevo rispondere a Claudio Meotto, no? Ma non perché io sono stato 7 mesi senza mai parlare di Camera di Commercio, anche se ho mandato dei messaggi e nessuno mi ha risposto. Il vice sindaco, che poi hanno, quando hanno visto la scritta del giornale, il foglio del giornalista Giudici, sì, il fallimento Giudici. Hanno fatto una tar force una domenica, e per una settimana, secondo me, la Camera di Commercio di Padova ha speso tanti di quei soldi con i manifesti. Siamo con voi. Cioè, perché sembrava che doveva lottare contro me? Io dico una cosa, no? No, non entriamo in questa roba delle lotte tra di rappresentanza, perché non è questa la cosa. Io volevo che lei spiegasse la sua idea, per dire c'è un margine anche per idee che vengono dal basso, non solo dai vertici nel mondo dell'associazionismo. Ma la conclusione della trasmissione di questa giornata, ricordando ancora una volta Paolo Trevellin, ricordando il padre di Roberta, ricordando tutti coloro che hanno scelto la via, quella indicata in una pagina di Cesare Pavese, insomma, verrà la morte, avrai i tuoi occhi. Penso che noi dobbiamo dire a tutti coloro che hanno un pensiero di questo genere in Italia: fatevi forza, attaccatevi a un telefono, parlatene. No, noi riconosceremo l'onore dell'impresa sempre, non c'è bisogno di appendersi a una trave per testimoniarla alla fine. Come lo stesso bisogna chiedere a centinaia di migliaia di dipendenti che hanno il problema della busta paga. Dalle difficoltà e dalle grandi crisi si esce con grandi raccordi collettivi e con grandi sensi di che cos'è un'impresa e una sfida da lanciare ogni giorno sul mercato. Grazie in regia Paolo Corleone e Alessandro Marco Tulli, grazie a tutti coloro che hanno aiutato con le loro testimonianze con questa trasmissione. L'appuntamento a domani, la linea generale.